Se mai tu ti fiderai, ti darò due ali per volare e scapperemo dalle tue paure, ci sarò sempre, sai. Se mai tu ti fiderai, dammi la mano, siamo la creazione, di me lo giuro tu ti puoi fidare. Non te l'ho mai detto, ma da quando siamo insieme noi il mondo mi sembra perfetto. Ma da quanto tempo avevo dentro la mia vita il caos ed ora io ci trovo un senso. Quando Dio ti ha inventata, probabilmente quel giorno, sai, è iniziata la mia vita.